A Palazzo Aldrovandi Montanari fino al 1° aprile sarà visibile la mostra Il Cerchio Spezzato. Siamo qui per parlarne con la curatrice Eleonora Frattarolo. Buongiorno Eleonora e benvenuta ai microfoni di Radio Città Fujiko. Buongiorno e grazie a voi per avermi invitata. Allora, innanzitutto Eleonora, la mostra apre all'interno di una nuova concept agency che si chiama The Room. Ci vorresti raccontare che cos'è e perché il progetto nasce proprio in questo contenitore, diciamo? Sono stata invitata da Giorgia Sarti, che si occupa del settore più specificatamente culturale e di promozione dell'arte contemporanea. All'interno di questo spazio, peraltro bellissimo, vi è una galleria diretta appunto da Giorgia Sarti. E questa è un'agenzia che si occupa di sostenibilità e di comunicazione sulla sostenibilità. E dunque Giorgia Sarti e Marco Tina, che ha fondato questa agenzia, insieme anche a Monica Traversa e alla stessa Giorgia Sarti, mi hanno invitato a presentare un'idea per inaugurare lo spazio, per inaugurare l'agenzia ed anche la galleria. E io lavoro da tempo a problematiche sociali e dunque, occupandomi della relazione tra arte contemporanea e pressanti e urgenti problematiche sociali, ho presentato un progetto relativo a quelle che sono le ricadute psicologiche, interiori, spirituali, delle problematiche ambientali, del grande problema relativo alla salute del pianeta Terra. Ho invitato 7 artisti che da tempo si occupano anche di questo tema, di questo filo conduttore, peraltro frequentato dall'arte attuale in modo pressante a partire dalla metà degli anni 60, ma che oggi ha conosciuto ulteriori sviluppi legati a quelle che sono le attuali problematiche relative alla salute del pianeta. Stavi dicendo appunto anche tu che il progetto espositivo vede coinvolti 7 artisti, ti va di raccontarci chi sono, com'è avvenuta la loro scelta? Abbiamo pensato insieme a Marco Tina, a Giorgia Sarti, a Monica Traversi di invitare artisti attivi sul territorio Emiliano Padano, ci vorrei dire, perché vi sono anche 2 artisti provenienti dal territorio milanese. Il lavoro di individuazione ha avuto a che fare con alcune caratteristiche linguistiche, cioè sono artisti che si occupano non solo di quello che accade fuori di noi, sul territorio, su quello che viene indicato come ambiente, ma anche dentro di noi, quali sono cioè le ricadute di queste problematiche così urgenti e drammatiche all'interno, come dicevo agli inizi di questa conversazione, della sfera psicologica, della sfera interiore, della sfera spirituale, quindi un fuori e un dentro. Il percorso della mostra inizia con alcuni splendidi acquerelli, tempere di Rufoism, che nei 2 anni della pandemia ha lavorato esclusivamente a questo tema, al tema cioè di un paesaggio magnifico e degradato, epico e soggetto a quella che è l'usura portata avanti nell'epoca dell'Antropocene. Si passa da qui ad Edoardo Sessa, un giovanissimo artista che da tempo si dedica alla smaterializzazione dell'anatomia umana, costruendo macchine sculture che raffigurano figure umane costruite attraverso fili di ferro di varia dimensione. L'effetto è straordinario perché abbiamo costruito uno scenario all'interno del cortile, anzi all'esterno, quindi nel cortile di The Room, proiettando anche le ombre di queste grandi sculture sulle pareti in modo tale che vi sia un'amplificazione della forma e del significato. Da qui si passa ad un artista che lavora unicamente con l'acquerello, Angelo Maisto, che da tempo propone una sorta di alternativa tra il serio e il giocoso, avendo come modelli di riferimento le tassonomie degli erbari antichi, ma anche il cinema d'animazione, anche l'illustrazione, in cui soggetti della natura interloquiscono con delle creature ibride che sono il frutto della connessione di vari pezzi di macchinari e quindi una sorta di possibile ibridazione armonica tra natura e cultura, tra natura e tecnica. Da qui passiamo ad una sala in cui ho voluto una sorta di confronto scioccante. Cioè, da un lato la fotografia di Luciano Leonotti eseguita in pellicola e dall'altro Andrea Valsecchi che lavora con il digitale producendo quella che un critico come Italo Zannier non definisce fotografia ma fotofania, e cioè un digitale all'interno del quale sono inseriti in post-produzione degli elementi tratti dal web. Si passa ad un'installazione di Paolo Migliazza che da tempo si occupa di costruzioni, di rappresentazioni di figure di adolescenti, di giovani persone in cemento. Un mondo silenzioso, un mondo deprivato della parola, un mondo rappresentato attraverso questi giovanissimi adolescenti e bambini la cui prossemica indica una impossibilità di parola e solamente la possibilità di silenzio. E da qui si scende in un bellissimo spazio, The Room, in cui interviene Silvia Zagni, questa scultrice, questa artista che lavora unicamente con la ceramica, dove ha appeso delle meduse che sono plasmate in porcellana mista ad una terra fosforescente. Queste meduse ci riportano all'interno di un mare che è il mare che vorremmo, il mare dei nostri desideri, il mare senza plastiche e senza inquinamento. Bene Eleonora, io ti ringrazio veramente per averci raccontato da più vicino la mostra Il Cerchio Spezzato che ricorda ancora una volta sarà visibile fino al 1° aprile, grazie. Sono io che ringrazio voi e vi attendo oggi a partire dalle 16 all'inaugurazione e grazie per questa attenzione nei confronti di un tema così pressante, così importante per noi tutti.